Eccoci qua, cominciamo. Grazie. Ecco, avviciniamo lei la star, la stronza. E poi, siccome siamo in un cielo che bisogna definire la propria identità, io fabula rasa. Prima eravamo tutto un essere indistinto, adesso l'universo vuole che io esprima la mia individualità. Allora, ci siamo, no? Va bene, si sente tutto, è un po' acuto, c'ho la voce acuta, un po' fastidiosa, sono da vergine, sono qua ragazzi, la prima cosa che dico, sei da vergine, sei da ragazzi. Lo so, infatti sono qui a fare un oroscopo diverso, noi siamo qui a raccontare quello che ci dice il cielo. Perché facciamo questo? Perché pensiamo che la missione è importante, da sempre l'essere umano ha osservato il cielo e non a caso oggi siamo al 10 di agosto, è la notte di San Lorenzo, è la notte in cui si esprimono i desideri. Desideri legati a Venere. Allora siamo in un momento molto importante, allora devo specificare prima una cosa. Che le stelle cadenti che possiamo osservare a nord-est, quindi prendete il cellulare, c'è la bussola e guardate esattamente dov'è il nord-est, dopo le vedremo insieme, è lì che c'è questa cometa che passa e lascia sta scia dei detriti, diciamo, i meteoriti. E ci stanno queste rocce che lasciano sta scia, che sono bellissime, e noi ci possiamo esprimere dei desideri, come dicevamo. È importante seguire i propri desideri. Allora, solitamente io e lei facciamo un po' spettinata, fatta a mia immagine e somiglianza, notate anche le rughe del collo, è così. Io invecchio, lei invecchia con me, è incredibile. E quindi oggi non farò proprio tutta quanta la spiegazione del cielo, ma le cose più importanti. Se cerchi una sedia si può prendere di là o ci sono delle sdraio di là, potete scegliere la comodità adatta, perché è importante stare comodi, giusto bambini? Sì! Perfetto! Allora, i bambini sanno tutto, i bambini conoscono anche il sistema solare, voi l'avete dimenticato, però oggi non lo faremo tutto, specifichiamo che ci troviamo con il sole nel segno del leone, ok? Quindi siamo nel centro dell'estate, ok? Nel momento in cui c'è l'abbondanza, la terra ci ha dato tutti i frutti e tutta l'abbondanza del cibo che ci serviva, siamo in questo momento rigoglioso. Poi il 23 il sole passerà in Vergine, il leone si mangia tutto, la Vergine dovremo conservare le cose. Allora, comunque, diciamo che siamo in questo momento molto importante perché l'estate, non ho ancora acceso la palla, ecco qua, mettiamola rossa oggi, dici come deve essere, rosso, questo cielo così come te vuoi vestire. Hai visto i bambini quanto so smart? Ci dobbiamo ricordare dello stato dei bambini, è storta la sdraia, non vorrei che ti catapultassi in un modo un po' anomalo. L'importante è che non coprite la scena dietro, perché a una certa età non ci vediamo più. Questo dopo lì, questa insomma. Allora, abbiamo questo sole in Venere, abbiamo anche la Venere in Leone. Allora, Venere ci parla proprio di quelle che sono le relazioni, i nostri desideri, quello che ci piace, la nostra immagine. E diciamo, poi oggi volevo raccontare delle cose a livello proprio la cosmogonia, la nascita dell'universo, eccetera, però stanno succedendo delle cose molto importanti, quindi penso che sia giusto sapere quello che accade nel cielo, perché quello che accade nel cielo è uno specchio di quello che ci accade nella nostra vita. Quindi abbiamo una Venere che ha deciso di stazionarsi nel leone, tutti quanti noi stiamo facendo un grande lavoro su quello che sono le nostre relazioni e su quelli che sono i nostri gusti, i nostri desideri e quello che ci piace. Quindi abbiamo passato con questa Venere una congiunzione a Lilith. Allora, Lilith è un punto matematico, è la parte oscura della Luna. solitamente non viene presa in considerazione, ma diciamo che i pianeti vengono attivati anche da altri punti, e quindi è molto importante sapere che Lilith è la prima moglie di Adamo. Non so se lo sapete, però nella Bibbia c'è scritto che prima ad Eva ci stava sta Lilith, e che questo Adamo nasce insieme a Lilith, quindi nascono alla pari, ok? Nascono insieme. Soltanto che Adamo, durante diciamo il loro atto di amore, chiamiamolo così, vuole star sempre sopra, e la Lilith invece dice vabbè, cambiamo un attimino posizione, perché anche io vorrei provare il piacere in un altro modo. Soltanto che Adamo dice no, guarda, mi dispiace ma non si può fare, e lei dice vabbè, sì, stai bene così, io me ne vado. La Lilith ci indica che non ci vogliamo sottomettere a nessuno, e in questi giorni stanno accadendo delle cose molto importanti, perché questa Venere per la seconda volta si è congiunta alla Lilith. La prima volta è stata diciamo nella sua parte quella diretta, quindi dai, sì, tiriamo fuori questo piacere anche, no? Andiamo verso questo amarsi in un modo più paritario, anche libero. Niente, sti bambini. Oh, glieli lascia al posto, c'ha ragione, zio, non ha capito niente. Ma tappiamo altra sdraia. Stiamo con la Lilith e così è. Guarda quanto arrabbiata, brava. Vabbè, un applauso alla bambina, perché questa è la dimostrazione di quello che stavo dicendo. Oh. Bene, tutto si manifesta come si deve manifestare. Voglio trovare il linguaggio giusto per dire certe cose stasera. Non riesco a vedervi tutti, però come mi vedete va bene così. L'importante è che mi sentite. A un certo punto la vita non ci si vede più bene, perché non dobbiamo più fare affidamento a quello che vediamo, ma a quello che sentiamo. Quindi, come dicevamo, stiamo lavorando sulle relazioni. Io ci sono nata con Venere retrograda, non è proprio una bella situazione, perché devo vedere queste relazioni come vanno. Quindi tutti quanti noi ci troviamo un po' in scontro con tutte le persone che frequentiamo. Quando parliamo di Venere non parliamo soltanto della persona con cui ho una relazione d'amore, ma proprio qualsiasi tipo di relazione, che può essere familiare, dei fratelli, delle sorelle, dei capi, delle amicizie, ok? E diciamo che la Venere e il Leone ci chiede, c'è una bambina ferita, vediamo che segno ha la bambina ferita, Cancro? Bilancia? Che segno ha la bambina? Il Leone? Questo conignetto? Perché non ci vedono, lo so, la vita è così, sì. È così, è difficile, la vita è difficile, lo si capisce soprattutto da bambini. Lui è proprio un freddolino addirittura. Questa maglietta meravigliosa, fantastico. Vuoi venire con me in scena? Ma sì, infatti si vede, si capisce. Allora, sei proprio sicuro? È proprio sicurissimo. Lui è del Leone, vero? Del Leone e del Cancro. Di chi ha la genitorialità del bambino? Ci dice che segno è? Non si sa, l'hanno capito, è protagonista. È acquario! È un acquario che però c'ha qualche cosa di acqua, dai colori lo vediamo che c'ha qualcosa di acqua, magari c'ha la Venere in pesci, che sta sempre appiccicato, no? No, allora è proprio da acquario, mamma, stammi lontana che devo da rimorchiare. Allora, diciamo. Questi aspetti molto particolari, proprio perché andiamo ad attivare delle parti che ci fanno lavorare su di noi. Allora, ci tengo a specificare che quando i transiti sono negativi, innanzitutto io sto qua per voi che vi dice male, non per quelli che vi dice bene, che comunque quando un transito dice male ti do un po' di adesivi da dare. Aspetta, gli diamo gli adesivi e i bigliettini da vendita. Tieni, guarda, ti va di distribuire questo. Che lei è gentile, ma non è così. La gentile, è molto protagonista. La bambina seguirà le mie orme. Io cerco addetti nel futuro. Vai e distribuisci il conoscere. La stronza è una parolaccia. Allora, allora, dicevamo questo grandissimo lavoro sulle relazioni, perché ci dobbiamo mettere al centro della nostra vita. Fino adesso abbiamo incontrato delle persone che ci hanno trovato in un modo, ci siamo accontentati, abbiamo diciamo attivato delle modalità, adesso siamo un po' stufi perché stiamo cercando di andare verso quelle relazioni che ci fanno comunque sentire bene, piuttosto che invece avere quelle situazioni dove c'è il bisogno. Mi sento sola, esco con la prima persona che mi capita e poi con la persona ti attacca un pippone infinito e tu non sai come salvarti. Ecco, diciamo, noi siamo qui apposta per dire come fare, perché quello che dobbiamo fare è dare riconoscimento alla nostra persona. La prima persona in assoluto, potete prendere le sdraio di là, le sedie di qua, a seconda di come volete star composti potete trovare il giusto modo di mettervi comodi. È una serata lunga, finiremo verso mezzanotte, mezzanotte e mezza, anche le due, sto scherzando, okay. Però mi sembra che un po' durerà, ok? Attenzione, perché stasera parleremo soprattutto dei pianeti in base all'ascendente. Se non sapete l'ascendente è un problema grave, ma potete recuperarlo il vostro sole di nascita. Il vostro sole di nascita è il segno zodiacale. Però è proprio per dirvi, favoloso, no? Che cosa, dove andranno a lavorare questi pianeti, perché tutto è concentrato nel segno del leone. Quindi il segno del leone è governato dal sole, ci dobbiamo mettere al centro della nostra vita e non ci dobbiamo più accontentare. Da poco tempo sono cambiati questi nodi lunari e i nodi lunari, diciamo, passavano dal toro allo scorpione. In questo momento stiamo andando verso l'ariete, devo far valere la mia identità e devo uscire dall'archetipo della bilancia. La bilancia è quella che governa proprio Venere, quindi siamo tutti centrati a fare un lavoro sulle relazioni, ok? Proprio perché dobbiamo andare verso delle relazioni sane e non più quelle tossiche. Poi a seconda di quello che uno vuole, perché magari a seconda dell'età c'è bisogno di divertirsi, sti cavoli, insomma, ad andare verso queste relazioni pure. Ognuno ha il suo percorso, eh? Quindi ognuno può fare quello che gli pare, però intanto diciamo che questa Venere Leone ci invita proprio a lavorare su noi stessi e sulla nostra immagine. Quindi siamo tutti in fissa, non so se vi è capitato questi giorni di stare a guardare l'armadio, per esempio nella chat di astrologia uscivano tutti i discorsi su quelli che sono i vestiti, no? Come si veste un segno, come si veste un altro, quindi quello che ci piace. Siamo in un periodo in cui bisogna buttare quei vestiti che non ci piacciono più, non li vogliamo buttare perché siamo della Vergine, non potete capire che problema che ho. Ho la stanza invasa di quello che non mi metto, divisa tra le persone che gli voglio regalare cose e l'altra è buttate, perché la Vergine non fa buttare niente. Comunque, scegliere quello che ci piace, rinunciare a quello che non ci piace. Non abbiamo più vestiti belli, andiamoseli a comprare sti vestiti belli, perché dobbiamo andare a lavorare proprio su quella che è la nostra nuova immagine. Quindi in questi giorni avremo un sole che si congiungerà a Venere, ok? Queste saranno le giornate dal 12 al 14. La congiunzione esatta sarà il 13 di agosto, quando le stelle cadenti si vedranno ancora meglio. Per la precessione degli equinozi, il cielo astrologico non coincide più con quell'astronomico, perché quell'astronomico mette al centro il sole, noi siamo sulla terra e gli esseri umani mettono, diciamo, al centro la terra, quindi è quello che vede all'esterno. Allora, questo è il sole. Dopo il sole che pianeta c'è, te lo ricordi? No, è ancora piccolo, Mercurio, però lui si sta studia bene, Mercurio, te lo ricordi? Lo ricorderai tutta la vita, eh? Fantastico, mo te lo porto appresso sempre. Mamma, sappi che mi dovrei seguire ogni cabaret, ne faccio troppi, ne la faccio manco io. Quindi, questa Venere retrograda, per chi sta in coppia c'è fase revisione, mi sei tratta bene, sta tratta male, vedi che questa persona non ti sta dando quello che vuole, ma te, che gli stai a dare all'altra persona? Consideriamo che quando noi nasciamo abbiamo la fotografia del cielo, questo quanto è carina, abbiamo la fotografia del cielo che ci descrive esattamente tutta la nostra vita, dovete sapere questo, ok? E noi ci portiamo questa immagine che cambia a seconda dei pianeti come si spostano, ok? Quindi abbiamo il Sole che si congiungerà a questa Venere e ci farà fare un lavoro dove noi possiamo andare totalmente a resettare quello che è successo prima per andare verso un cambiamento. Abbiamo detto che questo cambiamento ci va a chi gli interessa, a chi non gliene frega niente può continuare a sbagliare, fare le sue cavolate, inseguire quello che gli interessa. Attenzione, perché quando parliamo del Leone, mettersi al centro della propria vita oppure tirare fuori l'ego. Non mi sento bene? Allora che faccio? Vado in giro e rimorchio, c'è una persona che mi piaccio, ci sto, perché devo dimostrare a me stessa che valgo qualcosa, perché in realtà non mi sento di valere nulla. Invece quello che dobbiamo fare nella vita è amare principalmente noi stessi, amarci con tutti i nostri difetti, con tutti i nostri sbagli, e quindi è questo il lavoro che faremo nei prossimi giorni. Ora, siccome stiamo andando verso la luna nuova che sarà il 16 di agosto, considerate che adesso ci sarà, allora già c'è stata Venere Lilith, macello, quadrata Urano, non so se che cosa vi è successo questi giorni, io mi sono scritta proprio la profezia, ho scritto potrebbero succedere che delle relazioni si interrompono in modo brusco, io non me l'aspettavo, ma è andata esattamente così, ma proprio perché questa relazione in realtà non aveva niente di sano e quindi è finita nel momento in cui non c'era il vero sentimento, l'amore. L'amore che è anche di amicizia, non è per forza amore, abbiamo detto, verso un'altra persona, perché amore per te non c'è nessuna sessualità. Quindi andiamo verso quello che è l'amore puro. Ora, questo Sole congiunto a Venere, a un certo punto questa Venere, quando si congiunge al Sole, si dice che diventa una Venere combusta, si brucia. Okay, possiamo andare a bruciare i nostri vecchi schemi a livello relazionale. Essendo vicino alla luna nuova in questi giorni, quello che possiamo fare è per esempio prenderci cura delle nostre cose, dei nostri vestiti, le nostre scarpe, le nostre cose che ci piacciono, al di là delle persone, perché nel momento in cui stiamo lì a sistemarci l'armadio riusciamo ad avere delle intuizioni incredibili sulle persone, quindi ogni tanto stare lì a sistemare, a pulire, lo capisco che so da Vergine, però so disordinata, perché dovete capire che la Vergine invece vive nel caos più totale, e per questo che siamo pignoli e cagacazzi, perché ci cambiate il programma in macello. Invece andando a fare tutta questa sistemazione del posto, dei nodi, quello che sono i nostri desideri, potremmo avere le giuste intuizioni. Ah, quello mi ha detto qualcosa, però non mi ha trattato bene, ah, però quell'altro invece. Insomma, dobbiamo andare a osservare, perché dopo che questa Venere si è congiunta a, diciamo, al Sole, andiamo a bruciare questi schemi e poi ci sarà la Luna nuova in Leone. Quindi sarà tutto concentrato verso il discorso che ci dobbiamo mettere al centro della nostra vita, che dobbiamo amare i nostri difetti, che andiamo bene così come siamo, perché se non ci accettiamo non ci accetterà nessun'altra persona e non possiamo andare da nessuna parte, ok? Se noi non vogliamo cambiare è perché non accettiamo noi stessi e quindi non si va da nessuna parte. E quindi il tema di tutto è amare noi stessi. Nel momento in cui riusciremo veramente a fare questo, le persone si potranno veramente avvicinare. T'ho visto, Toro, te vedo, che te sei sconfortata. Ora, diciamo che poi spiegherò un attimino meglio quali sono ancora le dinamiche di questo cielo, Però oggi comincerò proprio col segno del toro, perché c'era una persona che doveva essere, no, se n'è andata via perché era tardi, e il toro è un segno fisso, ma io non cambierò la mia strategia, ok? Perché oggi dovevamo cominciare in realtà dal segno del toro. Perché questa cosa? Magari dice, vabbè, potevi cominciare col segno del leone, e il leone lo teniamo dopo, perché il leone ci dobbiamo perdere un sacco di tempo. Cominciamo invece da chi va a ricevere effettivamente questi danzi dei pianeti, che praticamente mi mazzolano da praticamente da dietro. Ok, la Venere, il leone è in quadratura al toro. Il toro è un segno governato da Venere, c'ha sta Venere storta da un sacco di tempo e ancora ce l'avrà per lungo tempo, perché fino al 9 di ottobre noi avremo questa Venere in leone. Quando ce l'abbiamo negativa non vuol dire che siamo sfigati, punto e basta, allora mi devo ibernare e non esco di casa. Assolutamente, perché questa Venere spingerà proprio le persone che lo riceveranno in modo disarmonico, perché negativo non si può più dire, siamo politica correct, e quindi l'aspetto disarmonico mette l'accento proprio sul cambiare le modalità. Il toro è un segno fisso, ossia nasce al centro della stagione, come il leone, come lo scorpione, come l'acquario. È gente de coccio, è gente che idea non la cambia manco se li pia bastonate. Allora io e la stronza siamo qua per darvi un incoraggiamento, nel senso che l'estate vi sta mettendo in primo piano, perché dovete andare a lavorare proprio su quelle che sono le relazioni con le altre persone. Quindi toro governato da Venere, il toro non si piace mai, ok? Uno delle cose è non mi piaccio. Allora, quando arriva l'estate, il toro si mette a dieta, cioè estate tutti godono, c'è l'abbondanza, il toro dice sono tutti felici, io no, mi voglio chiudere a casa, odio tutti quanti. Succede tutte le estati, quest'estate è peggio dell'altra estate. Ok? Semplicemente perché dovete andare a lavorare sui vostri schemi. Pure st'idea, no? Che magari certe cose non vi piacciono e non vi piacciono per tutta la vita. Toro, vi dovete togliere l'anello ardito dei torti subiti. Siete quelli che non si dimenticano nemmeno una stortura. Invece il cielo sta dicendo al toro che dovete fare del vostro passato il passato di verdure, quindi fatelo proprio con quelle cose un po' iodorossiane, prendete quello che vi sta morendo dentro al frigo, quelle verdure porelle che non ve magnate, ok? Stanno lì, stanno a soffrire, le mettete tutte insieme, le bollite, fate pure il soffrittino, non succede niente ogni tanto, però se volete sta sul sano, prendete ste verdure, la cipolletta, l'aglietto, l'acqua, poco olio, le mettete a bollire tutte insieme, no? Poi metaforico, quindi ci mettete tutti, quello ha fatto quello, cioè la melanzana, ecco, il stronzo che quel giorno non mi ha accompagnato a casa, quella no, la zucchina è l'amica mia che comunque non ha mai capito come mi sento, capito? La cipolla è quella persona che cambia sempre personalità, li mettete tutti nella stessa pentola, li fate bollire insieme, a un certo punto prendete il mini pine e fate un bel frullato. Questo frullato che lo bevete e vi dimenticate tutto, ok? Perché è questo quello che vi sta chiedendo il cielo. Allora, per quanto riguarda il toro è tutto un discorso particolare, proprio perché c'è Urano, che è il pianeta del cambiamento, e che vi sta dicendo che è il caso di cambiare la vostra mentalità. Oddio, ho detto. È il caso di cambiare alcune cose che pensate, ok? È il caso di cambiare la zona comfort, perché sennò vi ritrovate sempre a Fregene, ok? Oppure in queste spiagge sicure dove incontrerete sempre quelle persone che con cui ci volete fare sto frullato di verdure. Allora invece di andare alla solita spiaggia, vi chiama l'amica e vi porta in una spiaggia diversa. È lontana, ci vuole tempo, ci vogliono soldi, ci vuole impegno. Al toro praticamente lui gli dice: "Usci, senti, scusa, ma andiamo là, quanto costa? Quanto è lontano? Si magna?" Abbandonate tutta sta roba e fatevi abbracciare da questa nuova energia, perché l'universo vi sta dicendo che oltre queste idee che voi avete c'è molto altro di bello per voi. Quindi quello che dovete andare proprio a cambiare sono le dinamiche interiori, quindi questa Venere in quadratura, questo Sole in quadratura, oh, sembra mai una gioia, ok? Io voglio questa cosa, non ci passa nulla, ma non ce l'ha del volo, ma hanno rubato lo scooter, ma hanno fatto qualcosa, non riesco a fare quello che voglio, riesco a fare quello che voglio, non mi piace. Niente, mai una gioia, cioè solitamente il toro va scritto con mai una gioia tatuato in fronte, è in bianco, non lo vedete, ma c'è, è scritto là. Invece basta cambiare semplicemente alcune dinamiche. Allora, questi pianeti vi stanno concentrando, toro, ascendente, toro, soprattutto l'ascendente, perché quando sappiamo l'ascendente io so dove stanno i pianeti, e in questo momento per l'ascendente toro, quindi non ti dice male, ma che ascendente c'hai? Scorpione, andiamo bene. Toro, ascendente, scorpione, secondo me basta da sole, e invece no, il lasciar andare, quindi te devi sentire sia il toro che lo scorpione, non potevo pure far segno della croce, lo dico subito. Ma nel senso, perché proprio andare a lavorare su se stessi per andare poi verso un ottobre, quando questi pianeti fanno tutto il percorso, ottobre abbiamo capito chi ci piace, abbiamo svuotato l'armadio, ci siamo comprati delle cose nuove. Volete delle risposte dalle persone certe? Non è il momento giusto. Non gli potete chiedere a una persona o decidi ci stai o non ci stai, perché non è il momento giusto, perché non lo sa, non lo sapete voi, non lo sa nemmeno l'altra persona. Dobbiamo andare a ravanare, quindi toro, questo sole e questa Venere vi spingono a casa. Quindi innanzitutto ascendente toro, vi ringrazio se siete qui, perché già avete fatto una grande cosa, che siete usciti di casa, perché il toro nel momento in cui i pianeti sono al leone e sono tutti felici, loro no, loro decidono di stare a casa, decidono di stare a casa, e che bisogna andare a migliorare tutte le questioni legate alla casa. Quindi c'è proprio un rifaccio le pareti, me le ritinteggio, magari chiamo qualcuno, perché il toro la fatica non è proprio, comunque magari però è capace che lo fa pure il toro, eh. Però voglio sistemare il posto in cui vivo, oppure ci sono dei legami molto forti con quella che è la famiglia. Okay, questa Venere vi sta chiedendo proprio di cambiare quei sistemi che ci sono stati fino ad ora, proprio per arrivare, perché quando questa Venere finisce questo ciclo che durerà fino a settembre per poi tornare diretta e ottobre, finalmente il toro riesce a vedere la vera luce. Ho capito quello che voglio. Nel discorso a voi toro è farvi riuscire a capire che a volte quello che volete non è proprio la cosa migliore per voi. E questo è il punto, è proprio far cambiare a questo segno la mentalità. Ora, abbiamo visto ci sono delle problematiche di relazione, mi devo accudire anche delle persone, sto più vicino alle persone care, c'ho anche delle buone notizie. Le buone notizie sono che Mercurio e Marte, che sono gli altri pianeti comunque veloci, vi stanno indicando che ci si può divertire, che uscendo e frequentando persone, questo è il momento giusto per ritrovare un pochino di leggerezza. Quindi mi raccomando, quando uno vi chiama al volo, potete pure dire sì. Il toro dice sempre di no, la prima cosa è no, pure lo scorpione, eh? Poi dopo andiamo a vedere. Però pure il toro, abbiamo detto che c'ha quelle domande, vi siete andate in fiorino, ok? Per firma l'ha fatto un toro, è sicuro. Allora, abbracciate questo universo che vi sta portando delle cose nuove, ma siete voi che state lì nella zona comfort, che dite no, quello mi ha fatto così, quindi quello col cappello non ce devo più parlare perché è imbarzolato, quello con l'occhiale così cambiamo la visione, cominciamo ad uscire con le persone, perché Marte e Mercurio vi invitano, diciamo, alla socialità e al divertimento. Quindi ogni tanto abbandonate la vostra zona comfort, perché ormai è diventata un po' stantia anche per voi, ritinteggiate le pareti di un altro colore. Io non vi consiglio un rosso, una cosa pesante, una cosa leggera, quelle cose un po' d'ospedale, il verde, il celeste, il verde speranza, il celeste, insomma anche del bianco va bene, con qualche quadro, perché sennò non va al centro di igiene mentale. Allora, auguri d'oro, perché diciamo che quest'estate vi sta mettendo al centro della situazione, vi sta mettendo davanti a tutte quelle cose che non vi piacciono, proprio a riuscire a capire quello che vi piace, perché quello che vi piaceva prima non va bene per voi, e quindi è il caso di andare finalmente a modificare alcune vostre credenze. Per esempio, una delle credenze del Toro: non valgo nulla, non si è sentito valorizzato e c'ha bisogno di essere valorizzato. Se il Toro sta andando alle persone a chiedergli quanto vale, sta fottuto, perché il Toro deve riconoscere i propri valori. Il Toro è un segno che nasce col talento, è figlio di Venere, sapete, fa un sacco di cose, siete voi che non lo riconoscete, non potete chiedere agli altri che non lo riconoscete. Un'altra cosa specifica del Toro, perché solitamente il Toro d'estate, quando c'è tutta questa abbondanza, si mette a dieta, il Toro è bello rotondo, perché è governato da Venere. Più forme ci sono, più rigogliosità c'è, più il Toro sta in forma. Ok, poi ci stanno quei segni che invece devono secchi, tipo me, Vergine, Ariete, Gemelli, che se lo curiamo nel nostro sistema nervoso, devono essere secchi. Invece il Toro è la rigogliosità, più siete abbondanti, più andate verso il piacere, più il piacere viene verso di voi. Quindi accettate le vostre rotondità, perché secchi non state bene, ve lo dico. Ok? Cambiate punto di vista e l'estate diventerà più bella. Ottobre sarà il momento d'oro ed eccezione. Dovete andare a vedere le dinamiche con cui vi siete comportati, le persone che attraete, e tutto cambierà. Ho toccato una cosa infinita, lunghissima, tipo mezz'ora. Che segno facciamo da Portoro? Vergine, è uscita la Vergine da Portoro. Appunto, abbiamo tempo, se no ce ne stanno un'altra mezz'ora. Passiamo alla Vergine. Allora, Vergine, ascendente Vergine. Allora, la Vergine c'ha un problema, che la realtà non gli piace la Vergine, quindi cerca sempre di sistemare, di correggere tutto, vuole cambiare la realtà, vuole cambiare tutto quello che c'è attorno, vuole cambiare se stessa, perché la Vergine c'è sempre qualche cosa che va. Lei ha la parte carina. La Vergine si sente sempre sbagliata, vede sempre lo sbaglio. Guarda, ci sono quattro sedie libere, per favore. Dai, guarda, se è capitata al momento giusto, là con questi bambini, che fortuna cambiano idea, no? Lascia il posto libero, passata la testa che gli è rovinata la visuale, per favore. Però se voi volete andare a prendere i sogni, una sdraia di qua, una cosa di là, che se, state sedute per terra, che segno siete? Che se, bene. Non ci posso credere che stai seduta per te. Che cazzo sto a fare? Ti senti sfigata? Luna in Toro, quindi pesa culo, cioè non mi va di prendere la sedia. Oh, c'è la sdraio là! Guarda, sta a fare Venere, quella che c'ha la Venere contraria! E lei, a lei è più sportiva, Sagittario, che sei? Capricorno. Stanno a fare le persone statiche, stabili. Allora, parlavamo di sta Vergine. Allora, come dicevamo, è un segno complesso, un segno governare del cuore. La Venere e sto Sole, ascendenti Vergine soprattutto, stanno alle spalle. Quindi, allora, la Vergine gli piacciono le relazioni pure, le cose dove uno si dice in faccia esattamente quello che pensa, dove non ci stanno le bugie, dove, praticamente la Venere e la Vergine rimarrà sempre in questo mondo sola, disperata, se continuiamo ad avere questa testamentari, la cambiamo colore, la damoci un verde speranza, noi ci serve. Allora, sta Venere è posizionata, grazie, madonna che fantastico, mi sta... Vodka tonic in realtà adesso, questa è l'ora della vodka tonic, grazie, ma tanto lo grazie. Aspetta, lui sa che io, che me fabula rasa, vabbè, che le molte personalità presenti su questo palco comunque durante il cabaret hanno bisogno di bere perché parliamo tanto, perché ci scioglie l'alcol. Brava! Grazie. Ma su brava di chi si è capito, su cose che mi potete pure risparmiare né per me stessa, vero? La Vergine non c'è in bocca, non gliela fa. Allora, la Vergine c'ha questo Sole e questa Venere lungo tempo nella dodicesima casa, ok? Dodicesima casa è la casa del servizio degli altri, è la casa dei nemici nascosti, è la casa dello spirituale. Sto con qualcuno, mi metto a disposizione con la persona occupata, gli do una mano. Oppure incontro qualcuno, con la persona non vuole una relazione alla luce del sole, parlo soprattutto dell'ascendente, ci tengo a specificare. Se diciamo è solo sole, vi consiglio di stare attenti a quello che dico. Io non conosco le coppie, scusa, ho menato, vieni più avanti, mi ha tolto la picchia. Lei è così, un po' mia alter ego, la mia gemella scomparsa, un sacco di turbe mentali sicuramente lei è con me. Allora, l'amore per la Vergine è nascosto, una cosa che la Vergine non gli piace proprio. Ogni tanto magari potrebbe eccitare, però diciamo che c'è tutta questa elaborazione per andare a vedere esattamente quello che succede nelle relazioni. Allora, la Vergine è un segno doppio, ok? Non è la bilancia un segno doppio, la bilancia non è doppia per niente. La Vergine è un segno doppio perché chiude una stagione per aprirne un altro. Fantastico, meraviglioso, lui sarà Cancro, Leone, amore, che sei? Acquario, non lo sappiamo, ce lo dirà dopo, è una meraviglia comunque. Dopo vado là, la damba città. Allora, capito che sto da Vergine, che ci sto passando dodicesima, ma mi è arrivato il bicchiere, infatti il bicchiere mi è arrivato alle spalle, no? Se c'era Venere davanti mi arrivava subito. Allora, praticamente dobbiamo andare a vedere quelli che sono i nemici nascosti, perché la Vergine, essendo un segno doppio, noi sembriamo glaciali, distaccate, stronze, offensive, tutta una serie di cose. In realtà la Vergine è quel segno che una volta che gli stai vicino ti dà pure il cuore, oltre che quello non solo per consenso, l'avete capito il senso? Che non si può dire, ma è quello. E quindi la Vergine negli ultimi anni, almeno 10, diciamo, si è prodigata ad aiutare qualsiasi persona, la vedeva con l'occhio d'angolo, c'è un problema, ti dà una mano, eccetera eccetera. La Vergine ha aperto la porta a tutti, è rimasta un po' fregata, quindi adesso è molto guardinga, sta a guardare. Che me, infatti prima mi sono venuta a chiedere una cosa, io ho l'occhio torvo, che vuoi? Mi sta cambiando, mi sta, no? No, tutto. Stiamo un attimino in controllo, sempre, da quando sembrano, stiamo in controllo. Allora, attenzione, perché dobbiamo andare a riuscire a capire veramente se le nostre dinamiche sono giuste e riconoscere le persone che effettivamente sono quelle che hanno bisogno, le persone che effettivamente fanno quell'occhio languido semplicemente per prendere la disponibilità delle altre persone. Dall'altra parte, quindi, mentre ci guardiamo, e per la Vergine, per avere, soprattutto ascendente, per avere la chiarezza se la persona che abbiamo accanto è quella giusta, ma pure le relazioni, dobbiamo fare un lungo processo che arriverà a ottobre, quando la Venere passerà in Vergine, ci sarà l'ultima congiunzione di Lilith. Lo so, sembra tanto tempo, ma in realtà noi Vergini stiamo sempre a fare qualcosa, quindi i mesi passano a profusione. Mo stiamo a guardare perché in questo momento stiamo desiderando, e quindi quando desideriamo è perché desiderare, non vedere le stelle, voglio qualcosa che non c'è, è molto importante. Ecco, quindi quando desideriamo è se stiamo a fare dei sogni. Allora, mentre sogniamo dobbiamo riuscire a capire quando è giusto dare e quando è giusto invece rimanere centrati su noi stessi. Ce ne stiamo accorgendo perché in questo momento Mercurio e Marte sono in Vergine, quindi se fino a ieri la Vergine, qualche una settimana fa, la Vergine era abbastanza accondiscendente con le persone, quindi sì, va bene, andata male, ma troveremo un'altra soluzione, non c'è bisogno che si ammazziamo e che chiudiamo le relazioni, invece in questo momento la Vergine come sente qualcuno che prevarica, con qualcuno che gli mette i piedi in testa, con qualcuno che sta pensando di prevaricare, ecco, la Vergine in questo momento ve manna a quel paese in un anno, un secondo, nemmeno se ne accorge. Marte e Mercurio in congiunzione spinge noi della Vergine ad andare, diciamo, a far valere quella che è la nostra volontà. Se io fino a ieri ero disponibile e accondiscendente perché te voglio bene, tu mi hai messo i piedi in testa, mi hai rotto le scatole e quindi te imbruttisco. La Vergine quando te deve dire le cose sta zitta, buona e cara, poi quando te le dice te frantuma. Attenzione a quando vi rivolgete alla Vergine, perché se lo fate nel modo sbagliato e continuate a scroccargli tempo, risorse e quello, e volendo anche a livello economico, la Vergine vi rimetterà a posto, proprio perché vuole andare verso delle relazioni dove ci sia uno scambio, un dare e un avere. Quindi la Vergine non darà solo, pretenderà, vorrà, perché pretendere non va bene, vorrà che le altre persone diano in cambio qualcosa. Che cosa vogliono in cambio? La purezza nelle relazioni, la sincerità. Quindi la Vergine si trova davanti a delle persone che parlano di menzogne o che dicono una cosa e ne fanno un'altra, la Vergine farà sciaure in tutti i mani, con i piedi, con le mani, con i piedi, con il culo, ciao ciao. Quindi attenzione, non saremo morbide e gentili, siamo stronze per eccellenza, non c'è un segno più stronzo dello zodiaco della Vergine. Che segno facciamo? Cancro, arrivato. Eccolo qua. Allora, il cancro è il segno governato dalla luna e in questo momento, diciamo, si sta un segno d'acqua, ok? Le emozioni per eccellenza. Ora, questa Venere, scusa, allora, va bene, dobbiamo essere delicati. Lei mi dice, guarda, mi raccomando, attenzione col cancro che sono sensibile, quindi devi trovare le parole adatte per il cancro sono che effettivamente voi siete tra i segni che stanno meglio quest'estate, ok? Allora diciamo che l'anno è buono, prendiamola alla larga, l'anno è buono per il cancro, l'estate è buona, è buonissima. Nel senso che il cancro già si è vissuta la congiunzione di Venere e si trova sta Venere nella seconda casa, ascendente cancro soprattutto, Venere in seconda casa. La Venere e il Sole in seconda casa mettono l'accento su quelli che sono i nostri desideri, come i nostri piaceri. Devo dare valore a quello che ho. Quindi il cancro, siccome ha già scelto in questo momento, sta riconoscendo, poi se ancora non l'ha fatto in realtà, si trova proprio a contatto con tante persone. Allora, il cancro ha avuto delle entrate economiche. Ci sono dei soldi che gli sono entrati, sono arrivati i soldi? Ti sono arrivati? Non ti sono arrivati? Ce l'hai al pizzo. Il cancro, in questo momento, diciamo, siccome è un momento di stabilità, diciamo, non sta a morire di fame il cancro, perché ha capito che, diciamo, allora, cioè Saturno in Trigono, cioè Giove messo bene, il cancro in questo momento ha perso il senso di scarsità, ha detto, non mi sto a morire di fame oggi, ok? Allora dice, il cancro dice, sai, ho questi soldi in più, mi permetto una vacanza, vado in vacanza, stai in vacanza Cecilia, ciao Cecilia, ok? Allora, stai in vacanza, mi godo finalmente quello che è il frutto del mio lavoro, vado in vacanza. Se non stai in vacanza in questo momento, dici, vabbè, mi compro qualche vestito, mi compro quello che mi piace. Ci sono dei cancro che decidono di comprarsi delle cose ancora più grosse, perché ci sono dei cancro che gli sono arrivati proprio i soldi. Allora, questi soldi come li spendo? Mi voglio comprare una casa. Ci stanno dei cancro, che sei cancro, c'è ascendente cancro? No? Ah, ti piacerebbe, eh? Ho capito. Questa sarà tutta contenta, ma non è lei. Vabbè, allora sappiate che il cancro sta dando valore, veramente, sta riconoscendo il valore. Quindi se il cancro ha deciso di uscire con voi e di farvi presente nelle vostre vite, perché ha capito che voi siete le persone valide nella vostra vita, quindi voi sentitevi onorate già che il cancro sta vicino a voi, perché tutto ciò che non è valido il cancro lo sta eliminando dalla sua vita. Ora, devo dire che è un segno che in questo momento, quindi, sta dando valore a tutto ciò che ha e soprattutto sta cominciando a riconoscere il proprio valore, e questo è fondamentale per lo stare bene. Sto bene così, ho raggiunto dei risultati, questi risultati mi stanno dando soddisfazione. Quindi devo dire che state veramente piazzati bene, siete quelli meno in crisi, siete quelli che più uscite con le persone, meglio è, perché il cancro incontra una persona e sta persona gli presenta un'altra persona, che potrebbe diventare una relazione, che potrebbe diventare una cosa di lavoro, che potrebbe essere una cosa d'amicizia. Diciamo che il cancro in questo momento, nonostante la Venere roga al massimo, dice butto quello che non mi serve e mi metto quelle cose che valgono, quindi svuotare l'armadio nel posto, nel modo giusto per fare spazio a quello che c'ha veramente valore. Quindi state veramente piazzati bene, ci potete dare consigli pure su abbigliamento. Quindi dopo vi lascio il telefono, perché ho bisogno di buttare delle cose, non ci riesco da vergine. Che segno facciamo? Gemelli o acquario? Acquario, acquario mi è arrivato, acquario, mi è arrivato l'acquario. Perché l'acquario sta messo male? È per questo che stanno a insistere, eh? Siete pronte per registrare? Acquario? Sta messo male. Già gli piace acquario, sto messo male. Basta una volta. Allora, con l'acquario una volta sola, ti ascolta mai in realtà. Però loro già hanno in testa tutta una serie di cose. Allora, un segno d'aria. Segno d'aria. Allora, diciamo che nel cielo in questo periodo l'aria sta mancando. Ok? Tutti i pianeti sono segni di terra, di fuoco e di acqua. Non ci sono pianeti in aria tranne la Luna, che oggi è in Gemelli. Guardate quanti siete, incredibile. Io insomma non si vanno in. Io abbarei un po' meno, a volte mi incassano, non credate un po' che vanno scelto, guardate, però quando hanno una in Gemelli, diciamo voglia di uscire, socializzate, chiacchierare, e quindi state tutti qua. Poi capirai che la Venere che si sta congiunta bene, che sole Venere, che stiamo a fare a casa, divertimosi. Allora abbiamo detto l'acquario. L'acquario. Allora l'acquario è il segno governato da Urano, è quel segno che è opposto al leone, quindi il leone e l'acquario sono la coppia perfetta della vita, ognuno si fa i cazzi sua, è fantastico, una relazione che va un amore. Allora cosa sta succedendo all'acquario? Allora, ascendente acquario soprattutto, perché con l'ascendente noi sappiamo esattamente il pianeta in che casa è, quindi ascendente acquario, c'hai sta Venere nella settima casa. La settima casa è la casa del matrimonio, che parola obsoleta, delle unioni con gli altri, dei nemici palesi, mentre la dodicesima sono i nemici nascosti, qualcuno mi colpisce alle spalle. La settima casa è proprio il nemico che mi sta di fronte. Allora è un'opposizione. L'opposizione in astrologia è uno, secondo me, degli aspetti più interessanti che ci stanno, perché sai, la congiunzione mi devo dividere tra una cosa e un'altra. L'opposizione è io a vedere in un modo e te da vedere in un altro, è tutto chiaro. Se scontriamo, seminiamo, famo pace, famo sesso. Allora, quindi l'acquario si sta trovando in un periodo. Allora, innanzitutto, considerando che è cominciato questo nuovo ciclo, avete fatto il mazzo, vi siete sbattuti, nessuno all'inizio mi hanno riconosciuto, adesso vi stanno riconoscendo, però ci sono ancora delle cose che voi state lì a guardare le persone po' di traverso, no? Allora, l'acquario quello che ha bisogno è di libertà, ma la libertà non è la libertà delle relazioni, è di sentirsi libero. Diciamo che il problema dell'acquario è proprio il sentirsi prigionieri, quindi sono i ribelli e gli anticonformisti dello zodiaco. Però quello che voglio dire all'acquario è che se voi vi presentate sempre come i ribelli, quindi vado contro per antonomasia, è perché voi siete voi che vi sentite prigionieri, nessuno vi blocca, invece state lì a guardare il capello e le posizioni che vi mettono gli altri. Ricominciamo a quando ci stava il lockdown, potevi stare a casa perché c'era il divieto, potevi andare a correre, ok? Ci sei andato a correre, acquario? Sì che ci sei andato a correre, per carità, esatto, per forza che potevi stare a casa, è questo il discorso, no? Diciamo, devo inseguire la libertà. Allora, diciamo, la Venere che vi mette davanti a quelle che sono le questioni, o me riconosci o fai vedere che mi stai insieme, o mi dai la mano in pubblico o te lascio. Questo era qua, se non gli davi la mano, sì, o ta dava sicuro capace che ti lasciava. Stasera ti sei guadagnato una bella serata, oh, ok, è andata bene. Allora, diciamo dell'acquario, o riconosco, o questa relazione viene riconosciuta in qualche modo, non dico che l'acquario si sposa, perché abbiamo detto che sono due cose un po' diverse, però stiamo insieme, lo famo vedere o non lo famo vedere, se non lo fa vedere, hai capito il senso. Poi dopo andiamo a vedere il tuo ascendente, il tuo sole, lei ha già vinto, sì, poi tu hai capito qual è la cosa, mi dispiace, l'ho portato adesso, non so, sto pure in prima linea, sto a fare i tuoi. Lei quello non vuole negare a nessuno, te lo qua, stai con lei e pensa cazzi sua, lei sta a casa, lei sta su internet, devi guardare tutto, i massimi sistemi da leader, collettiva, amicizie, mica penserà che tu vuoi il caffè a letto, io devo portarti perché se no si sente prigioniera, si sente prigioniera se te lo devi portare, ok? Quindi io parto il caffè e la sera trombi. Allora, scusate la spontaneità, allora, per l'acquario è o stiamo insieme, o se famo vedere, o se lasciamo, perché poi alla fine questa relazione, pure voi siete acquari, voi due qua con la manina carini, maglietta verde, che siete voi tutti carini? Verci, amore, che bello, ok? Che carini, è una bella cosa, meravigliosa, sono proprio carini. Vabbè, a me piace vedere le spontaneità dei sentimenti, siccome in questi tempi sta un po' sfuggendo sta roba, invece è bello, quindi grazie per l'immagine che mi state dando, perché è molto bella. Sto da vergine, c'ho saluto, non posso. Allora, acquario, ci riconosciamo oppure te ne vai a quel paese. Nel frattempo Mercurio e Marte stanno nell'ottava casa, è un discorso di soldi che vengono dall'esterno, avete pagato le multe, se voi pensate che comunque vanno fermato per l'alta velocità, per parcheggio fatto male, la fate franca, sapete che poi arriva a riscossione a casa e vi bussano. Quindi se non avete pagato tutti i debiti è il caso di pagarli, perché vi arriva la Tari, anche se hanno detto che rimandavano, ti credo, grazie. Se no, se avete pagato tutto, avete fatto una bella dichiarazione dei redditi, vi arrivano i soldi, ok? Quindi se non avete pagato dovete da pagare, se avete lavorato bene vi arrivano i soldi. E attenzione, perché a livello sessuale vi sentite belli motivati, quindi per lui è una buona notizia. Gli acquari in crisi si potrebbero lasciare, ma quelli in crisi che proprio la situazione non ti avrebbe dato la mano in pubblico, ok? Ma questo è privato, lo sapete voi. Attenzione, che segno facciamo? No? Devo stare attento, non avete i copi. Come? Capricorno, a bionda, alla dietro. Che dici? Sagittario! Allora, il Sagittario che poi parla con la voce, va bene il Sagittario, va bene, no? Dopo l'acquario sta a gittare, vediamo come ci pare, no? Allora, il Sagittario, abbiamo questi pianeti molto interessanti, Sole e Venere, tutte questa Lilith che si stanno, e questa Luna nuova che si stanno muovendo nella nona casa. Allora, la nona casa innanzitutto ha un aspetto di trigono, quindi Sagittario, questo Sole, Venere, Lilith la ricevono in buon aspetto. Però questo buon aspetto serve per cambiare un attimino la visione che avete, ok? Quindi possono nascere delle relazioni veramente interessanti, soprattutto durante i viaggi, oppure con persone con altro tipo di mentalità o che vengono da fuori, persone straniere. Quindi attenzione, viaggiate, incontrate uno straniero, voglio andare a vedere un compagno di uno straniero. Questa è la canzone del Sagittario in questo momento, esattamente così. Quindi insomma, diciamo, tutto ciò che è diverso, tutto ciò che è lontano da quello che avete sperimentato fino ad ora vi farà molto bene. Ma diciamo che tutto questo lavoro dei pianeti, questo Sole, questa Lilith, questa Venere che andrà in congiunzione, vi sta chiedendo anche di cambiare un pochino alcune vostre convinzioni. Il Sagittario è il segno che proprio in assoluto ha ricerca la sua vocazione, ok? Perché il Sagittario nasce senza avere una direzione, senza una bussola, vago, vado in giro, viaggio in continuazione perché non so dove andare, non so qual è la mia strada. E in questo momento i pianeti invece vi stanno indicando che forse la strada che avete intrapreso fino ad ora non era quella giusta, potete cambiare alcune vostre convinzioni. Vergine, abbiamo Saturno contro, Vergine, però non è la prima volta, non sei l'unico, e lo so, succede, però abbiamo qualche aspetto contrario, non so pure ricordato. È Saturno opposto, zio, tutto a posto, soprattutto che abbiamo messo pure al centro, è questo che la Vergine non riesce a fare, capito? Oddio, hanno parlato di me, però sta bella compagnia. Vabbè. Allora, Sagittario, attenzione, cambiare alcune vostre convinzioni vi possono aiutare, diciamo, avvicinarvi sulle vostre persone, perché diciamo voi siete il segno del sì, siete il segno governato da Giove, e quindi diciamo che non vi sottraete mai a quello che vi porta al futuro, però diciamo che i pianeti vi stanno dicendo che effettivamente esistono anche i problemi, non esiste solo il sì, non esiste solo il tutto bello, ci sono delle dinamiche che vi stanno rompendo le scatole. Quindi a livello relazionale, diciamo, cambiando una visione possono arrivare persone nuove, attenzione, perché Mercurio e Marte, che sono in congiunzione in Vergine, vi stanno mettendo un ostacolo per quanto riguarda, allora, se il Sagittario lavora, non è detto che lavora perché solitamente va in giro, diciamo, a insegnare o a fare i santoni in cura della situazione, diciamo, la immagine professionale, la realizzazione della vita del Sagittario è che il Sagittario dice delle cose e l'altro dice: ma che cazzo stai a dire? È un po' tutto l'anno che il Sagittario si era un po' istruito dalle altre persone. Attenzione a come vi ponete, perché vi potreste scontrare con quello che per voi rappresentano le autorità, e diciamo a livello lavorativo non vi trovate in sintonia con le persone che stanno al di sopra di voi, il padre, il capo, quello, quell'altro, niente, è un macello, vi potete anche picchiare, ok? Quindi però se voi cambiate la vostra visione, ma che problema c'è, no? È tutto a posto. Allora Sagittario, vi dovete rendere conto che a volte alle persone, se voi andate con sto sorriso ebete a dire che non c'è nessun problema, una persona che invece ha un problema non si sente empaticamente ascoltato. Avete capito qual è il senso? Che ogni tanto sto ottimismo sfrenato sfracca i coglioni a chi c'ha bisogno di piagne. Chi c'ha bisogno di piagne non andasse nel Sagittario, andasse da un altro segno, perché il Sagittario quello che fa è che vi toglie qualsiasi problema voi ci avete. Ne ho fatto per l'universo qualche problema, ve lo presenza. E quindi attenzione, perché un anno con delle difficoltà, e difficoltà vanno superate, sono governati da Giove. Giove è Zeus, il dio dell'Olimpo, è quello che praticamente cambiava l'aspetto fisico per trombarsela qualunque. Allora poi oggi non volevo raccontare, ma non finiremo mai perché già è tardi, considerate la prossima. Allora sono pronta a raccontarvi questa mitologia greca che ci accompagna, che sono i nostri archetipi. Quando incontrate il Sagittario vi dice sempre di sì, vi dice di sì, ok? Poi tra dire e fare c'è sempre di mezzo il mare, c'è una benevolenza, non c'è nessuna cattiveria nel Sagittario, tranne quando gli sta antipatico, ma quello è un altro punto. Basta questa benevolenza da avercene. Vabbè, Sagittario, attenzione, delle cose vanno tanto bene, altre cose vi conviene sta zitti, volete rimorchiare, ascoltate, fate finta di non parlare la lingua invece che dire no, perché io conosco anche il greco e il latino, spraccate ogni tanto e fate gli ignoranti, che se ne facciamo? Capricorno, bilancia, aspetta, devo andare a dritto. Più largo me la linea è più grosso, però quello è più lungo, vabbè, sto punti di vista. E io non c'ho, cioè, quello che mi piace. Faceva bilancia, giusto? È governata da Venere, non devo essere scorrere. Bilancia figlia di Venere. A differenza del toro che sta massacrata da sta Venere contraria, la bilancia, che è proprio quel segno. Mi devo comprare scarpe, una monziane, mi devo mangiare, sto da sola, una monziane, mi devo comprare un vestito, una monziane, che fai, domani ci vediamo? Ci siamo visti, ci vediamo domani? La bilancia gli piace stare in relazione con le altre persone, ma tanto, proprio il segno della settima casa, l'unione insieme agli altri, l'unione riconosciuta. No, se dico matrimonio, non si può più dire. La bilancia gli piace stare con delle persone che li amano. La bilancia deve guarire la tua ferita d'amore. Su questo mi servirà un altro tempo. Questa l'ho detta grossa. Grazie. Dobbiamo dire dopo al bar. Qualcuno glielo dice. Che vuoi? Marta Conico. Arriva. Loro lo sanno. Mi sono bagnati pure appunto. Telefonino, succede sempre, mi cade sempre qualcosa, l'ho detta grossa. Vabbè, insomma, la bilancia è un segno che mi piacciono le relazioni, perché è nata per questa relazione con le altre persone. Che bello, dai, stiamo insieme. Però bilancia si può fare tutto insieme, ogni tanto pure dormire da sola, mangiare da sola. Allora, è un'estate interessante perché in realtà per la bilancia tutti questi aspetti, sole, Venere, cose, ma tu che segno sei? Che sei proprio curiosa, Scorpione? No. Guarda. Il gran sacerdote. Cioè? Sa, sente calma. Chi è il gran sacerdote? Attenzione. Non lo sappiamo. Non lo sappiamo. Cioè, è basica, me ne do zodiaco, niente qua, Gemelli. Grande. Ascendente bilancia. Ah, dov'è allora ascendente bilancia? Questo ti riguarda. Perché in realtà stai nel posto giusto. E certo, ascendente bilancia. No, non ti dirò anche il ghiaccio. È ghiaccio. Beh, mica te volevo prendo sul petto. No, non si sa mai. Allora, ascendente bilancia, attenzione, molto riguarda te. Perché proprio nello stare nei gruppi, nei posti dove c'è il sociale, dove ci sono quei movimenti politici, dove ci sono i gruppi, è proprio frequentando questi posti che la bilancia si sente in sintonia. Quindi la bilancia quest'estate finalmente può trovare. Grazie, molto gentile. A voi. Vedi, questo è già più stretto. Scusa. Non ci mettiamo a discutere su questo. Assolutamente. Non vorrei. Io poi sto registrando e dovrò pubblicare il podcast con tutta sta roba. Per chi ha coraggio di sentirsi i podcast. Ok, lo metto per chi sono interessati. Insomma, nessuno deve forza seguirmi. Non mi interessa. Vabbè, spero che vi divertite, io comunque vado molto a braccio, sono il sentire lo spettacolo lo faccio con voi, quindi ogni spettacolo è sempre diverso. Grazie, molto gentile. Asciugati. grazie. A posto, guarda, se, lo sapete che quando in realtà mi si riversa il bicchiere c'è tutta questa accoglienza che io mo devo far cascare ogni cabaret, secondo me, perché mi piace che la gente mi aiuta, mi sostiene. Allora, quello che gli piace a Bilancia, non a casa, a Bilancia gli piace proprio questo, uno che gli dà una mano, non so, no, tutta una cosa bella. Allora, per la Bilancia, vediamo che l'estate è questo, diciamo, tutti questi pianeti, come diciamo, Sole, Venere, è proprio nella dinamica delle amicizie, nella dinamica dei gruppi, nella dinamica del faccio le cose insieme ad altre persone. Una cosa che alla Bilancia gli piace tantissimo. Ora, la Bilancia avrebbe detto, vabbè, ma stiamo insieme? Che poi vorrebbe questa relazione. Però tra frequentare i gruppi e poter trovare una relazione, lo spazio si potrebbe, diciamo, accorciare. Quindi invito la Bilancia ad accettare qualsiasi proposta, proprio perché in mezzo alle altre persone si trova molto a suo agio. Quindi è un'estate che la terrà sicuramente, diciamo, in compagnia. Però qual è la problematica della Bilancia? Che in questo momento si trova Mercurio e Marte che sono nella dodicesima casa, quindi che bello uscire con gli altri, però Bilancia, vi dovete rendere conto che ogni tanto state un po' osservando le altre persone e non siete totalmente pervasi da un clima di fiducia. C'è qualche cosa che non vi sta quadrando e quindi, diciamo, state un pochetto sulla difensiva. Se state sulla difensiva le altre persone se ne accorgono, quindi vi potreste attirare quel nemico che sospettate ci sia. E quello che, diciamo, Mercurio vi sta dicendo, poi Mercurio a un certo punto farà una fase retrograda, ve lo dirò nel prossimo cabaret. In questo momento Mercurio nella Bilancia sta invitando, diciamo, a riflettere su quello che è accaduto fino adesso, perché andando, diciamo, a rivedere tutta una serie di dinamiche di comunicazione con le altre persone, riuscirete a capire un sacco di cose e a trovare il modo giusto per approcciare alle altre persone. Una cosa che per voi è totalmente importante, quindi mi raccomando, perché questa Venere vi sta spingendo anche a fare i progetti con altre persone. Quindi attenzione, perché se voi state sulla difensiva, però dovete collaborare sugli altri e gli altri non vedono che non vi fidate, poi diventa un pochino più difficile. Quindi dovete cercare di trovare la giusta via senza indispettire gli altri, in modo che li potete avvicinare, però non prestare per forza l'altra guancia. Quindi è un momento molto interessante, però i miei amici vi stanno chiedendo, a voi Bilancia, di cercare quella dinamica nuova per aprirvi verso gli altri, perché se voi siete stati fregati, tanto nessuno mi ama e tutti mi fregano, in realtà è come se mettesse un blocco da subito. E magari non è detto che quello che va fregato col cappello o che si chiama Mario, tutti i Mario della vostra vita vi fregheranno e tutti quelli col cappello vi fregheranno. Non è così che funziona la vita, i pianeti ce lo stanno indicando, quindi, diciamo, aprivitevi, non prostratevi, però sapete che effettivamente tra le tante persone che vi si presentano alcune sono propizie, altrimenti dobbiamo affinare semplicemente l'intuito. Se stiamo sulla malfiducia ci andremo a tirare quelle persone che effettivamente ci garantiscono che era sicuro che non si davamo fida. Quindi attenzione, delle nostre paure si manifestano, lo dico perché avevo paura a farmi l'SH che me lo rubavano, mi sono fatta l'SH e me l'hanno rubato. Che segno facciamo? Si è bagnato tutto, chissà, posso pure a registrare, chissà se funzionerà. Ha lasciato pure i fazzoletti. Grande, fantastico, super organizzata. Devo girare ancora i fazzoletti. So poche cose. che ce l'hanno una borsa. Questo da vicino non ce l'ho mai avuto. Paramo, fatto. Ah, paro in giro con i fazzoletti. Faro, butta sti fazzoletti e lascia l'acqua a Zozzura che ti potrebbe aiutare. Vai al sud di Ciumedor. Abbiamo detto che se lo facevamo Capricorno. Ah, Capricorno. Ah, aspetta, mi si rovina il palco qua. Allora, Capricorno. È Capricorno, l'ascendente Capricorno. Questa Venere, il leone, l'unica cosa che ci può fare è i soldi. Allora, chi c'ha l'ascendente Capricorno? Principalmente, in questo momento, questa Venere, questa Luna nuova, questa cosa è tutta legata al mondo economico. Stanno succedendo delle cose, vi state a spartire i soldi con qualcuno, c'avete delle cose che devono entrare, tutta sta roba. È lì che sta succedendo. Soldi in entrata, eredità, cose che si stanno muovendo in quell'ambito là. Se sei ascendente Capricorno è così, non ci scappi, a meno che non, è proprio difficile che sia diverso, eh? Quindi si stanno movimentando questi soldi. Se il Capricorno non ha, allora il Capricorno non paga le multe perché va più veloce e quindi magari ci potrebbe essere Guidalia che gli chiede di pagare le multe. Però il Capricorno è quel segno che sarà dal 2018 o massimo 2020, sta a mazzo così, sta a lavorare, ha lavorato e quindi diciamo sta avendo un riconoscimento su tutto il mazzo che si è fatto, o ha venduto case, che ha lanciato un nuovo progetto, ha fatto una marea di roba Capricorno, che sta super piazzato. Quindi questa Venere, questa Luna nuova sta vedendo proprio sui soldi che sono condivisi con gli altri, questioni di eredità, questioni legate a altre persone, diciamo questi soldi che vengono dall'esterno. Se avete agito bene vi arrivano una fracca dei soldi, se invece non avete pagato qualche multa e pensavate che non va a mannavano, va a mannano, eh? Ok? Si gratta i capelli, secondo me c'è più da riscuotere che da pagare, eh? Però al Capricorno, però ho detto, cioè certe cose le paga. Al Capricorno non gli piacciono le scorciatoie, il Capricorno è quel segno che si fa il culo, no? Io comincio da pulire i cessi, il Capricorno, e poi diventa presidente, così, perché sono quelli che partono dal basso per arrivare in alto, è il segno che più costruisce in assoluto. Le faccio un nome di un Capricorno che chissà, ancora vivo, perché ci hanno detto che è morto, Adriano Celentano. Cioè, avete presente Adriano Celentano, brutto come a volte? È molleggiato, bravissimo a ballare, bravissimo come attore, bravissimo, è un artista con i controcoglioni. Oddio, momenti lo ributto giù. Brutto come la fame, affascinantissimo. Dovete capire che il Capricorno c'ha un fascino, è un carisma. E arriva a, diciamo, sul punto più alto. Mi dispiace dirvelo, Giorgia Meloni è del Capricorno. Vediamoci sopra. Comunque, allora, Capricorno, soldi entrati, soldi in uscita, questa riguarderà, non me lo ricordo, l'ascendente della Premier, per fortuna, dello il Premier. Comunque, fatto sta che l'ascendente Capricorno, questi soldi, sia Leone, Capricorno ascendente Leone, capo dei capi, c'ha pure il sole in sesta casa. In realtà mi dispiace, ho guardato il tema Natale, alla stoffa per diventare presidente, ma deve dare più soldi al popolo. Vabbè, purtroppo, eppure, a guardare è pure affascinante, non so minimamente tedesca, questo sia chiaro, ok? Però che devi fare? Guardate chi diventa premier, c'è cioè, il sole congiunto a Plutone, quella è nata per diventare premier, che cazzo ci devo fare? L'universo ci ha portato a questo, siamo noi che magari dovremmo cambiare qualche cosa, per fortuna ci penserà Plutone da qua, i prossimi 2 anni saranno delle rivoluzioni in assoluto e ci spingerà lei, amore messi in vitalizia, amore a terra di cittadinanza. Andremo verso la rivoluzione, meno male. Allora, Capricorno, comunque non sono tutti i Capricorno uguali, ognuno è affini a se stesso, e quindi diciamo sono diventata conduce dagli ormoni che si muovono, il capricorno che si sente che c'ha bisogno di qualche cosa, vabbè, capricorno c'è bisogno di viaggiare. Capricorno ha bisogno di viaggiare, questo Mercurio e Marte, se il Capricorno viaggia, quindi stacca dal lavoro, smetti di lavorare con questo mal di schiena, di quanto ti sei fatto al culo, abbiamo capito tutto, ti piace a te fatto al culo, viaggia, divertiti, mandaci le foto, ma soprattutto portaci in vacanza. Ora, in questa vacanza, il Capricorno gode, gode di conoscenze, ma sempre voglio andare, perché già c'è stato, non da anche oltre. Quindi diciamo cambiare mentalità, perché a livello lavorativo il Capricorno può aprire il suo lavoro anche a queste dinamiche con l'estero, con posti diversi, insomma Capricorno continua a espandersi, devi stare il ministro degli esteri, la facciamo diventare che abbiamo un residente, è una buona idea. Che segno facciamo? Leone! Leone, dai, famo il leone, è arrivato diretto. Allora, il leone è un segno, abbiamo detto, governato dal sole. E leone è il protagonista dell'estate per eccellenza. Alzate le mani, leoni, ascendente leone. No? Allora, soprattutto ascendente leone, vi dico proprio dove sta la casa, ma va bene anche il leone come segno. Perché è il momento del vostro compleanno, auguri quando siamo nel momento. Allora, è un anno altamente importante. Abbiamo detto che la Venere ha deciso di fermarsi sul vostro segno zodiacale, quindi voi vi illuminate di immenso, infatti cambierei colore, metterei una cosa un po' spenta, no? Ecco, metterei una cosa così, ma più viola, mi piaceva viola così per essere un po' così, ma avrei dovuto mettere rosso, va bene sto colore? L'accettate? Va bene? Volete ancora più? Basta. Allora, protagonisti dell'estate, leone e ascendente leone, perché proprio questo sole innanzitutto vi porta al ciclo del momento del mio capodanno personale, rigetto i semi per un nuovo anno, Venere fissa che mette l'accento sulla vostra immagine e su quelli che sono i vostri desideri, quindi mi raccomando, dopo quando andremo a vedere le stelle cadenti, le vedrete magari anche nei prossimi giorni, secondo me, e vedete pure mentre dormite con Leone in questo momento, diciamo che le relazioni sono messe in primo piano, soprattutto quello che è messa in primo piano è la vostra immagine, ok? Quindi il Leone, siccome ha passato degli anni abbastanza tostarelli, perché tra il 2020 e il 2022 ci sono stati degli ostacoli grossi alla visibilità del leone, è come se fosse stato cacciato via dal trono, e questo diciamo ha indispettito molto questo segno, che invece nasce con un'eccellenza, una eccellenza, al massimo due. Cioè, o c'hai lungo o c'ha l'altro bicchiere, tralasciando queste affermazioni che vengono a capire, che nel senso magari potete eccellere nella comunicazione, nel lavoro, in alcune cose e non su tutto, diciamo la vostra immagine è messa in primo piano, quindi qualsiasi cosa fa il leone va a finire nella prima pagina, qualsiasi cosa fate, magari tu stai lì, infatti mi stai diretto, diretto, nulla è mai a caso, no? Allora adesso lui sta diretto, magari mi diceva una cosa, poi c'era qualcosa che dava fastidio al naso, lui faceva la foto, che succedeva? Magari sembrava che si scaccolava. Attenzione a come vi muovete, leone, perché qualsiasi cosa fate viene vista da chiunque, sta dal paese, il paese sa tutto di tutti, sa con chi stai, cosa hai fatto e perché l'hai fatto e pure perché non l'hai fatto. Quindi attenzione, primo piano, quando stai in primo piano, io capisco che per voi è bellissimo, siete il centro dell'universo, però mi raccomando, attenzione, perché sempre quell'arma a doppio taglio, capito? Quindi attenzione a come lo vedete, perché voi pensate di fare cose nascoste, tutto vedono tutti. Immagine in primo piano, potete brillare, finalmente avere quel riconoscimento che vi è stato tolto negli anni addietro, finalmente le persone capiscono che quello che voi avete detto in fondo era giusto, e quindi ci potrebbe essere un grandissimo riconoscimento. Gli amori sono in primo piano, la relazione sta andando bene, difficilmente con una Venere retrograda le relazioni stanno andando bene in questo momento. Invece se c'è una relazione possono succedere che certe cose non stanno andando proprio bene, e che quindi diciamo non è tutta non mi tratti bene, non è alla luce del sole, non mi compri la ragosta, stai a aspettare che io ti pago da mangiare, ciao, sempre con i piedi, con le mani, ciao ciao. Ok, il leone va trattato bene. Il leone non ha una relazione, ecco leone, mica vorrete stare a casa ad aspettare che va arriva il tipo della pizza, non siete il tipo della pizza, voi siete il tipo che o voi siete i presidenti o state con i presidenti, ok? Cioè nel senso aspettative alte. Se voi siete centrati su voi stessi potete attirare veramente quelle situazioni molto belle, però ultimamente vi sono successe delle cose che vi stanno chiedendo di capire se voi state facendo i leoni nell'ottava alta, ossia state facendo i leoni che sono centrati su se stessi, perché se il leone, vedete, si mette a fare quello che la Vergine, pure la Vergine sbaglia per carità, perché mettesi al servino è sbagliato, però la Vergine è nata per il servizio degli altri, il leone è nato per stare al centro della sua vita. Quindi se il leone è prodigo col fratello, la sorella, i genitori, i figli, con tutto il bene del mondo, il leone deve stare al centro della vita sua, non deve stare appresso agli altri. Quindi se il leone vuole il giusto riconoscimento e attrarre, perché questo è il momento in cui possono nascere delle relazioni veramente interessanti, leone, rimanete al centro, cioè riconoscete il vostro valore, che voi in fondo lo sapete che avete tutto questo valore, però ogni tanto c'è qualcuno che vi fa dubitare. Siete il dio del sole, giusto per farvi capire una cosa del genere. Rimanete al centro della vostra vita e vedete quello che attirate. Se c'è qualcuno che vi sfugge, vuol dire che non è la persona adatta. Voi dovete rimanere al centro, leone sta sole, al centro. Gli altri pianeti che girano attorno, se io dormo con questo, tutto l'universo cade. Quindi voi dovete fare in modo di rimanere al centro della vostra vita, dovete essere assertivi, capire quello che vi piace. Se vi piace una persona è quella persona che deve venire da voi. Se voi andate con una persona non funziona, voi dovete stare lì a far vedere quanto effettivamente valete, però dovete riconoscere il vostro valore, attirerete le persone giuste. I protagonisti in assoluto dell'estate. Non è facile, perché qualsiasi cosa dite, qualsiasi cosa fate, tutti ci avranno qualcosa da ridire. E quindi se tutti ci hanno qualcosa da ridire, voi state lì che non è. Cioè, poi il discorso, sapete, no? Quando il discorso dei capi, delle persone esterne va tutto bene, ma quando si tratta della famiglia, leone, lì va un po' nel pallone, ma mia figlia, mia madre, mio padre. Attenzione, sempre al centro della vita voi dovete stare, potete avere dei grandissimissimi risultati. Mercurio e Venere, scusate, quindi Sole e Venere vi dicono valorizzate la vostra immagine, curate il vostro look, potete tagliarvi i capelli, potete fare quello che vi pare, qualsiasi cosa vi mettete, pure anello al dito, anello al naso, qualsiasi cosa fate, siete splendidi e meravigliosi, pure se non fate niente, c'è cioè un effetto filtro bellezza. Quindi, insomma, dovete riconoscere il vostro valore, gli altri lo riconosceranno. Nel frattempo, Mercurio e Marte sono belli concentrati sul avete fatto il mazzo, state a lavorare, state in prima linea, state a guadagnare un sacco di soldi, aragoste e ristoranti e qualche vacanza. Chiamatemi che io vengo con voi, diciamo magari se famo pure una spa. Quindi è il momento di godere, dei piaceri della vita. Mi raccomando, non ci rinunciate, non è proprio il momento, dovete proprio dare valore a tutto quello che avete attorno. Attenzione leone, potreste, diciamo, ci sono dei leoni che sono già accoppiati, solitamente, poi dipende dall'età, dipende dal sesso, purtroppo ancora esistono queste distinzioni, le abbatteremo nel 2025, però ci sono, date, diciamo, valore a quello che vi interessa, i soldi che voi li potete spendere, se li volete spendere insieme a me, io sono felice. Che se ne facciamo? Gemelli! Polpot ci dice gemelli. Scusa. Polpot, ci chiami il commercialista tuo. Interessante, donna la mia commercialista, ma la potrei chiamare. Allora, parliamo del segno dei gemelli. Allora, gemelli è quel segno che si trova tutte queste congiunzioni, questa sole, venere, messi nella terza casa. Quindi tutto sta concentrato nella dinamica comunicazione, piccoli spostamenti, fratelli, sorelle, perché la terza casa riguarda anche tutto ciò che anche il sì e sì, se non c'ho fratelli e sorelle, quindi è il parentale più vicino, diciamo legato all'archetipo gemelli. E quindi diciamo che gemelli escono e è quel segno che dice sempre di sì, ok? E ci sono questi sì che stanno dando grandi soddisfazioni. Attenzione, perché la gente vi piace sul serio e quindi dice ma hai detto di sì, e quindi dobbiamo continuare sto progetto lavorativo, perché i pianeti in terza casa è che bello, facciamo un contratto insieme, ti tocca lavorare. Attenzione gemelli, a dì di sì bevi di meno e ogni tanto pure di no, più te la tiri più alzano i soldi. Questo è quello, il consiglio che vi posso dare. Quindi ci sono Mercurio e Venere che vi spingono a uscire, a concretizzare, quindi l'amico che ti presenta l'amica, che ti piace l'amico dell'amica, dell'amicizia, potrebbero nascere quelle relazioni che sono interessanti. Quelli inciuci, perché non vorrei dire a un gemelli una cosa continua io, intanto parte l'inciucio. A gemelli gli piace quella relazione che stiamo leggeri prima di tutto, e poi vediamo che cosa succede. Allora, in questa chiacchierata, attenzione, perché la gente arriva sul serio e che quindi vuole fare, insomma, ma in tutti i segni verrai a lavorare per me. Lavorare, gemelli. Diciamo, bisogna divertirsi, che fa lavorare. E gli ha detto di sì, è mottabile, che attenzione, perché vi potreste divertire. Allora, gemelli, quello di cui hanno bisogno è la relazione con il pubblico. Gemelli non sta chiuso in ufficio a fare un lavoro da solo, perché se no sta lì a chattare con la qualunque, sono quelli che magari fanno quel sesso proibito sulla chat e poi li ricattano, perché non riesce a stare lì nell'ufficio a fare quella cosa così seria. Hanno bisogno del contatto col pubblico, devono chiacchierare. Più stare a contatto col pubblico, meglio è. Attenzione, perché in questo momento a livello lavorativo Mercurio e Marte si sono messi un pochetto antipatici, quindi state in ferie, meglio, tanto i problemi stanno a casa. Ascendente gemelli soprattutto, qui parliamo soprattutto dell'ascendente gemelli, che sì, che bello, chiacchiero, vado in giro, eccetera, però ci sono delle problematiche legate alla casa. Quindi attenzione, perché questi giorni di questo sole e questa Venere e questa luna nuova vi spingono a uscire di casa, ad ascoltare le altre persone, anche a stare sui social. Invece per tutto ciò che riguarda la dinamica familiare, in questo momento i gemelli gli stanno stretti talmente tanto da riassa parolacce. Gemelli, è meglio che non state a casa, perché in questo momento chiunque è il vostro coinquilino, familiare, amante, coinquilino, il bersaglio dei vostri problemi, uscite da casa, sarete meglio. Ai problemi non tocca sfuggire, però è possibile, diciamo, utilizzare un tono assertivo senza rompere troppo le scatole, però potrebbe succedere, insomma, qualche problema in casa. Boh, te litigi, uscite, venite a cabaret. Che segno facciamo? Scorpione! Allora, lo scorpione, scorpione come l'acquario, siamo da dire un sacco di cose, ma vanno pure a da bere, che era gemelli, forporto diceva la commercialista, glielo dirò. Allora, abbiamo detto scorpione. Lo scorpione è un segno fisso. Lo scorpione è quel segno che si sta beccando la quadratura di Venere. Allora, lo scorpione ha scelto un messaggio molto importante in questa vita, che è proprio quello del lasciare andare. Quindi un toro scorpione è proprio prendo l'insegnamento, ci faccio un purpurì e brucio l'incenso, non la casa. Ok? Allora, per quanto riguarda lo scorpione, che è il segno opposto al toro, sicuramente questa Venere e questo Sole, con tutte queste congiunzioni, quello che abbiamo detto all'inizio, tutto si concentra proprio sul mondo della realizzazione e del mondo lavorativo. Ok? Quindi è l'immagine che io do al pubblico, l'immagine che io do agli altri. È lì che c'ho il problema, perché lo scorpione si sta scontrando con quello che rappresenta l'autorità. Quindi se c'è qualcuno che mi dice quello che devo fare, come lo devo fare, quando lo scorpione è uno di quei segni che cerca di fare al meglio qualsiasi cosa, lo scorpione è uno dei segni più intelligenti dello zodiaco, ok? Quindi non gli dite cazzate perché già vanno scoperto. Quindi quando viene preso, diciamo, una persona che non è profonda, no, è profonda, intelligente, diciamo, viene toccato nel profondo dell'anima. Quindi a livello professionale anche lo scorpione ci mette molto del suo, ma non si sta trovando troppo a suo agio, o comunque qualsiasi cosa fa lo scorpione in questo momento viene visto da tutte le altre persone. Lo scorpione è un segno che lavora nell'ombra, non gli piace sci, non gli piace farsi vedere, sta sempre lì, perché purtroppo chi nasce con l'ascendente scorpione è qualcuno mi sta a fregare, qualcuno mi sta a far male, è la prima energia, vengo incontro con la morte e mi devo diffidare degli altri, questa energia è nata. Attenzione, che è vero che è intuito, però a volte vi potreste bruciare delle situazioni, vi stanno rompendo le scatole proprio a livello professionale. Quindi questa cosa qua voi vi mettete in discussione, quando invece voi ce sapete fare, non vi mettete in discussione, mettete in discussione il fatto che non vi riconoscete. Quindi è vero che questo Venere e questo Sole vi mettono, diciamo, in prima linea e vi venite rappresentati proprio, qualsiasi cosa fate in realtà venite mostrati al pubblico, una cosa che a voi vi spaventa tantissimo perché invece vi fa bene, ok? Quindi apritevi verso l'esterno, considerate che questi pianeti in Vergine vi danno una grandissima capacità di dialogo, quindi potete parlare. E se avete tutta una serie di problematiche, cari scorpioni, nel comunicare quali sono i vostri disagi e aprendovi alla collaborazione con l'esterno, in realtà vi troverete molto bene. Anche lo scorpione è un segno fisso, quindi ha quelle idee preconcette che lo tengono nella zona comfort, ma una zona comfort che deve cambiare. Anche lo scorpione, che è il momento d'oro per l'eccellenza, è proprio ottobre perché i pianeti arriveranno lì, e questa Venere, dopo aver fatto questo lungo lavoro, vi darà la capacità di vedere le cose in modo chiaro. Allora, lo scorpione è uno dei quei segni che arriva nel profondo, avete tutta la possibilità di arrivare, diciamo, a questo ottobre dopo aver analizzato tutta una serie di cose, e confido molto nel vostro successo, perché in realtà diciamo che c'è un Saturno che vi sta guidando verso la strada giusta. Dovete smettere di vedere il nemico ovunque, ma non è sbagliato nemmeno vedere il nemico, ecco, questo ci tengo a specificare per lo scorpione. Però se pensate che tutto è una minaccia, magari anche le persone che vengono con la maggiore fiducia, dipende chi è, bisogna insomma vedere. Non è la vostra estate, ma è, diciamo, quell'estate che vi invita sempre anche a voi a non legarvi a quelle persone che si ritirano, perché lo scorpione piacciono le cose travolgenti. Quindi se c'è una persona disponibile che, oh che bello, usciamo, lo scorpione si ritira, se c'è quella persona, madonna mi fa schifo, loro gli stanno ai piedi. Ecco, semplicemente cambiare la dinamica di sofferenza. Non è vero che tutto sofferenza, non è vero che tutto sacrificio, l'amore vero è crescita insieme. Quindi chi non vi fa sentire bene lo potete annientare tranquillamente senza avere problemi. Che segno facciamo? Pesci. Pesci, ma dove pesci? Che segno ci manca? Pesci, ariete e basta. Poi ho finito. Cioè, perché poi a un certo punto dici, madonna, questi segni finiscono, nel frattempo io comincio praticamente con il microfono che ai tempi del Covid veniva disinfettato. Adesso no. Però io bevo l'alcol, l'alcol che serve a disinfettare. Ti ha detto che facevo pesci e poi ariete. È bellissimo perché finiamo nel modo giusto. Allora, grazie, questo è il momento giusto per parlare, bene. Allora, per quanto riguarda i pesci, tutto questo cambiamento, tutte queste dinamiche, questa Venere, questa Luna nuova, tutti questi pianeti di questi giorni che ci aiuteranno a scoprire questo vaso di Pandora, attenzione, si svolgeranno nella sesta casa, ascendente pesci. Allora, la sesta casa è la casa del lavoro, quindi tutto si svolge nell'ambito lavorativo. Ci sono delle dinamiche che non stanno andando bene. La sesta casa è anche la casa della salute. Non mi sento bene? Mi metto a dieta, mi vesto meglio, sto più attenta alla mia immagine, sto più attenta soprattutto a quello che mangio, perché mi deve prendere cura di me stessa. Quindi è una Venere che aiuta, diciamo, questo segno a mettere l'accento che, sai, per stare bene effettivamente non devo andare in palestra, è che non mi devo sfondare di fritto tutti i giorni, perché questo è il problema. Se io bevo e mangio male tutti i giorni, è inutile che vado in palestra. Ora, in realtà la palestra a quanto pare ci fa bene. Ho scoperto questa cosa qua, che praticamente l'essere umano, come gli animali, per stare bene, per, diciamo, stare in linea, quello che dobbiamo fare è pompar cuore, ragazzi. Cioè praticamente dobbiamo faticare. Questa cosa di quanto è bello stare rilassati su un divano senza fan cazzo è un'idea, mentre il nostro corpo ha bisogno, pure il nostro cuore, cioè invece di mandare il cuore a mille per uno che incese fila, non mandare il cuore a palla, perché bruciamo quei grassi che ci fanno venire, il colesterolo che ci fanno venire l'infarto. Quindi l'infarto non è per quell'amore che non te la dà, ok? L'infarto viene quando stiamo troppo a nostro agio sul divano. Allora, pesci, capisco un discorso assurdo, però è così, dobbiamo in realtà faticare un po', perché questo cuore che ci scoppia, perché abbiamo fatto quattro piani a piedi, guarda, guardate che quattro piani a piedi è tutta salute. Andare appresso a uno che non ci si fila è una cazzata, scusate la volgarità. Allora, cerchiamo di far battere il cuore per l'esercizio fisico, piuttosto che persone che in realtà non ci calcolano. I pesci è il segno dell'immaginazione, è il segno che si innamora del mondo, dell'universo, ama tutti, qualsiasi cosa, ma si sta più alle sole. Allora, che non piace le sole, fate le scale a piedi, ok? Prendi a capocciare il collega, perché quel collega che in fondo ti sta tanto antipatico, prendendolo a capocciare forse potrebbe avere un bicchiere molto largo. Allora, quindi diciamo che le dinamiche amorose si possono sviluppare, non per distrarre l'amica pesci, guarda la bionda. Allora, le dinamiche relazionali possono nascere nell'ambito del lavoro, colleghi, persone che vengono a prendere i pacchi, che ne so, dove spedire una cosa, allora pesci, chiamate, andate alla posta, così ci metti 3 ore a consegnare un pacco e sei più contento, perché mi devi spiegare perché il pesci sta a lavorare in ufficio, non c'è senso, il pesci deve suonare una canzone, deve scrivere una poesia, deve viaggiare, si deve drogare, deve far barbone, ma lavorare in ufficio, ma che senso c'ha? È una vita sprecata. Allora, diciamo, bello l'ambito lavorativo dove vorrebbe nascere qualche inciuccio, Mercurio e Marte vi stanno mettendo in scontro con quelle che sono le persone proprio nell'ambito del lavoro. Quindi attenzione, perché io vi dico che quell'ambito lavoro eccetera potrebbe averci qualche cosa di grande soddisfazione. Quindi attenzione, perché se avete qualche disturbino è caso di prenderlo in considerazione. Luna Venere nella sesta casa, igiene, lavoro, salute, il quotidiano. Vado a osservare come funziona la mia giornata, ci metto l'accento perché da lì possono nascere delle cose veramente interessanti. Nell'ambito lavorativo in realtà è una fatica lavorare in ufficio, ma magari arriva il postino buono o il collega e magari qualche capo che cambia. È difficile, eh? Però voi le fate firma, perché mi posso fare io. E allora, l'ultimo segno, con grande soddisfazione, l'Ariete. Allora, l'Ariete, che sarebbe il primo segno dello zodiaco, gli va sempre galla, l'abbiamo tenuto per ultimo, non è mai a caso. Ma c'è stata l'Ariete in sala? C'è stata? C'è stata? L'Ariete sta messo bene. Sta messo bene. Allora, mi raccomando, per chi ha a che fare con l'Ariete, non rendersi totalmente disponibile al 100%, io direi un 89-87, anche 60, perché questi, se gli dai ancora 90, giusto se tu gli dai scatole. Allora, l'Ariete piacciono le cose difficili, è per questo che dico questa cosa. Allora, l'Ariete sta piazzato non bene, di più. Perché questo Sole, questa Venere, questa congiunzione sta tutto in quinta casa, soprattutto ascendente Ariete, non sei ascendente Ariete, mi dispiace, meglio per te, meglio per lei, perché io sono ascendente Ariete. Allora, tutto è piazzato nella quinta casa, la quinta casa a volte, benissimo, siamo messe una bomba. Allora, la quinta casa a volte è legata a quelle che sono i figli, sembra un po' strano, una casa del leone in realtà. Non è la casa del cancro, non la guarda. La quinta casa è la casa degli hobby, del divertimento, del tempo libero, del palcoscenico, ok? Io sapevo benissimo, per esempio, che quest'estate avrei avuto una Venere in quinta, quindi non riesco a andare in ferie, pure mi diverto a quinta casa, Però è proprio la casa del palcoscenico, è la casa degli hobby, dei nuovi progetti. Quindi l'ascendente Ariete si trova sul palcoscenico e non può pensare nemmeno di scenderci da questo palcoscenico. È un'estate che invita l'ascendente Ariete ad andare verso la scena e soprattutto a ridefinire la propria identità. All'inizio ho fatto una distinzione che non faccio mai fra me e la stronza, perché ci siamo sempre definite una cosa uguale, lei parla, poi sta zitta, mi tocca di tutte le cose a me, e finalmente ho detto che io sono una cosa diversa, proprio perché io devo definire come ascendente Ariete la mia identità. Questo lo devono fare tutti gli ascendenti Ariete, al momento dei nuovi progetti, di mettersi in mostra, di avere le proprie soddisfazioni, e soprattutto è il momento di innamorarsi se proprio non c'è ancora una nuova relazione. Se c'è già una relazione ci possiamo divertire. Nel frattempo Mercurio e Marte, per quanto riguarda la scendentarietà, si trovano nella sesta casa. Tipo di cattivo, lancia nuovi progetti, poi invece tutta sta mano. Nel frattempo lavori. E quindi nel frattempo che lavori, magari, visto che lavori e ti devi far vedere, ti devi mettere a dieta, devi mangiare sano, devi fare un sacco di cose. La rete si è messa una bomba, sia come sole come ascendente. Mi sembra ho finito tutti i segni. Vi faccio riassunto, perché secondo me ci sta bene. Abbiamo detto, perché poi parlo per tanto tempo, che siamo in un momento in cui tanti pianeti stanno in Leone, abbiamo degli stellium, nel segno del Leone ci chiede di metterci tutti al centro della nostra vita, e dobbiamo stare attenti, perché mettersi al centro della nostra vita, essere centrati su noi stessi, dà avere valore a noi stessi. Però c'è quella sottile linea che ci divide dall'ego, quindi non dobbiamo seguire le cose proprio per soddisfare il nostro ego, ma soddisfare la nostra parte più profonda. Se andremo verso la soddisfazione dell'ego possiamo sbagliare mille volte. L'astrologia ci dà l'opportunità di lavorare sui transiti. Più sono negativi, in realtà è meglio, perché più evolviamo. Quando ci dicono bene di transiti, col cazzo che stiamo a sentire a stronza, perché ci va tutto bene, sta in vacanza. Quindi Leone, Ariete, Sagittario sono i segni che più vengono coinvolti, diciamo, da questa Venere Luna, che mettono l'accento proprio sul proprio centro. Quindi i segni di fuoco sono più centrali, ma anche la Bilancia e i Gemelli stanno molto bene attraversati da questa Venere congiunta a Lilith con questa Luna nuova in Leone, perché sono giorni legati proprio a mettersi al centro della nostra vita. Per quanto riguarda Vergine, Sagittario, Gemelli e Pesci, stiamo messi che l'energia fisica comunque in qualche modo è abbastanza forte, quindi se non stiamo attenti a come l'utilizziamo potrebbero succedere delle cose in cui questa energia sprizza dai pori sbagliati. Toro, Leone e Acquario, Scorpione sono i segni che vengono attraversati da questa transiti così importanti di Venere, proprio per andare a cambiare le proprie modalità, in modo che andiamo a tirare delle cose completamente diverse. Non è tempo buttato, anzi è tempo molto importante per andare ad osservare come ci siamo comportati noi, cosa abbiamo ricevuto. Allora, se io comportandomi in questo modo ho ricevuto questo, vuol dire che io devo cambiare dinamica, in modo che non mi vada a beccare più quello col cappello che si comporta in quel determinato modo. I transiti, diciamo, ci aiutano a capire quali sono le nostre modalità e qual è il momento giusto di agire e qual è il momento giusto di riflettere. Il cielo ci aiuta a capire qual è la nostra strada. Noi non abbiamo nessuna pretesa, ma da quando l'essere umano ha osservato, diciamo, è nato, ha sempre osservato il cielo. Quindi se non abbiamo imparato a coltivare, se non abbiamo imparato a navigare, se non abbiamo imparato qualsiasi cosa, l'abbiamo fatto osservando il cielo. Non dobbiamo perdere questo tipo di conoscenza. Noi vi ringraziamo per la vostra grande presenza e ci vediamo alla prossima.